Cinema Massimo. La storia del cinema con Massimo Pica. Buonasera, benvenuti alla prima puntata di questa, diciamo, questi incontri, spero proficui e lunghissimi, di una, come possiamo chiamarla, rassegna vocale radiofonica chiamata Cinema Massimo. Io mi presento, sono Massimo Pica, sono nato a Torino, abito Ivrea da alcuni anni, sono aspirante comico, attore teatrale. E mi sono lanciato in questa avventura con questa radio, una radio web che si chiama Radio Abawalla, e mi hanno chiesto se avevo voglia di fare qualcosa. Io ho pensato che la prima cosa che avrei voluto fare in radio sarebbe stata parlare di cinema. E così ho proposto di fare una rubrica cinematografica libera, in cui mi è stato dato carta bianca, in cui avrei potuto parlare di quello che mi pareva, come mi pareva. Allora, io vi dico, nell'esordio io ci ho pensato e secondo me i registi sono tanti, i film sono tanti, tra cui scegliere è difficile, il gusto è personale, però io vorrei iniziare con il regista che forse più mi ha colpito, mi ha segnato sin da piccolo, perché i suoi film li ho visti sin da bambino, soprattutto i primi più demenziali, più puramente comici. Io parlerò questa sera per voi di questo regista, Woody Allen, regista lo conosciamo tutti. Grandi film, successi mondiali, e ho pensato di dividere la sua carriera in tre momenti che possono sembrare diversissimi tra di loro. Il primo momento è un momento puramente comico, a volte addirittura demenziale. Non tutti forse hanno presente i primissimi film di Woody Allen, in cui lui era veramente, si lasciava andare a sketch e gag assolutamente commerciali, demenziali, ma trovate assolutamente geniali. Lui arrivava dallo stand-up comedian, è stato un precoce scrittore, autore comico, autore televisivo, e era il genio dell'epoca. Lui sin dai suoi esordi aveva qualcosa, comunicava, battute sagaci, battute al fulmicotone che non si erano mai sentite. E quindi il suo esordio è un esordio puramente comico. E io ho pensato di iniziare così. Poi ci sarà un secondo periodo della sua carriera in cui dalla comicità pura si passa alla commedia brillante, quindi con film comunque divertenti ma già più intensi, che saranno anche premiati con Oscar per la sceneggiatura soprattutto e per il meccanismo di costruzione delle storie, fino ad arrivare all'ultima parte della sua carriera, che forse è quella più conosciuta da tutti, con film che posso dire con alti e bassi, film belli ma film anche un po' discutibili e non sempre alla sua altezza, però vabbè, d'altronde non tutti possono essere infallibili. Comunque la prima parte della carriera di Woody Allen io la faccio iniziare con il suo primo film da regista. Lui aveva già fatto alcune cose come attore, era stato scelto perché era un personaggio buffo, con questa sua caratteristica dei capelli rossi, un po' così, sempre che non si sa bene dove stava con la testa, un impacciato. E lui infatti aveva prestato la sua figura in film come, non so, 007 Casino Royale, forse l'unico 007 non veramente 007. E proprio questa sua prestazione come attore fa sì che lui riesca ad ottenere un contratto come regista. Nel 1967 lui propone alla United Artists un soggetto basato sulla storia di un criminale, ovviamente un criminale che non è assolutamente, che non fa paura a nessuno, incapace in tutto e per tutto. Sto parlando del film che si chiama Prendi i soldi e scappa, Take Money and Run in lingua originale, del 1967, come l'anno in cui viene partorita l'idea. Poi le riprese inizieranno più avanti. E la caratteristica principale del Woody Allen regista è che spesso lui ha preferito sacrificare i guadagni pur di avere il controllo totale sulla scena. Quindi il suo primo contratto con la United Artists è proprio, si impone proprio nel controllo totale e nell'assoluta volontà di essere l'assoluto, insomma, decideva lui, insomma. La storia di te, di Prendi soldi e scappa, forse è una storia molto molto interessante, molto avvincente, però veramente complicato. È stato un film complicato e osteggiato, però adesso ne parleremo tra breve. Ora vi lancio un breve commento musicale, un brano in Creative Commons. Questi sono gli Emerald Park con Add More. Bentornati alla seconda parte di Cinema Massimo. Come già detto e anticipato nella prima parte, questa sera parliamo di Woody Allen. Stavo parlando prima del suo primo film, Prendi i soldi e scappa, Take Money and Run, l'abbiamo già detto, in cui lui interpreta un criminale scapestrato, assolutamente incapace, Virgil Starkwell. Questo film è un film tormentato. La United Artists non era troppo convinta nel lanciarlo e non si era troppo convinti sulle capacità comiche dello stesso Allen. Per carità, lui era sicuramente apprezzato come autore, come scrittore, ma non come attore. Ci sono pensato addirittura per il ruolo da protagonista ci fu un contatto anche con Jerry Lewis, che però avrebbe limitato la voglia di dominio assoluto sul set da parte di Allen, perché a vedersela con un mostro sacro come Jerry Lewis sul set non è facile per una persona che vuole controllare tutto. Quindi alla fine il protagonista fu lo stesso Allen, che interpreta questo criminale scapestrato, in cui dice, secondo me la citazione perfetta di questo film la fa all'interno del film la cosiddetta vicina di casa degli Starkwell, che erano i genitori, in cui lei dice: tutti credevamo che fosse un deficiente, poi saltò fuori che era un criminale. Vai a pensare che un tale cretino era un criminale. Non si poteva credere che ci fosse una mente in quella zucca vuota in grado di pensare. Questo è l'introduzione, o comunque la presentazione che si fa del personaggio. Il film ha una particolarità: è un film costruito in uno stile documentaristico. Praticamente si racconta la storia di Virgil dalla nascita fino all'arresto finale che avverrà da parte dell'FBI, e con l'introduzione dei cosiddetti testimoni, le persone che hanno partecipato alla vita di Virgil. Una delle situazioni più buffe di tutto il film sono i genitori di Virgil, che vengono intervistati dato che si vergognavano del proprio figlio, hanno il naso e gli occhiali e i baffi di Groucho Marx, un grande omaggio a uno dei suoi autori preferiti, in cui il padre è molto aggressivo verso il figlio, mentre la madre continua a difenderlo nonostante tutto. Però è una delle macchiette più riuscite di tutto il film. Lui ha un... La caratteristica di Virgil è quella di essere l'inizio del vero e proprio personaggio Allen. Cioè, in questo film si inizia a creare quel personaggio dello strampalato, del timidone, dell'impacciato, con gli occhiali, l'occhialuto, senza il minimo di fascino, incapace con le donne. Ma a breve vi lancio un altro brano, ma a breve cominceremo a parlare del film nel suo dettaglio e nella storia, e racconteremo alcune gag divertenti che si succedono. E ora in onda La Malavoglia con Liberi. Siamo noi che combattiamo per gli ideali, liberi siamo noi che ci chiamiamo come i temporali, liberi siamo noi che scriviamo sui giusti giornali, liberi siamo noi che non ci travestiamo ai carnevali mai. Liberi siamo noi che ricerchiamo la nostra terra, liberi siamo noi che la troviamo appesa ad un ferro, liberi siamo noi che pensiamo di aver sempre perso, liberi siamo noi quando ci va il vostro sputo per traverso. Liberi siamo noi quando non rispondiamo alla violenza con la violenza, liberi siamo noi quando rispondiamo alla violenza con un elegante avanzo. Ho nostalgia delle cose che poi rivivrò, ho nostalgia di quando che consolerò, ho nostalgie dei fratelli che strangolerò, io ho nostalgie delle mogli che ammazzerò. Schiavi noi quando la nostra donna festeggia a marzo, schiavi noi quando noi scegliamo da soli, schiavi noi quando ci chiamano schiavi, schiavi noi quando non alziamo la voce mai. Schiavi noi se crediamo che si stanno poteri buoni, schiavi noi se non ci sentiamo mai per questo coglioni, schiavi noi se crediamo che si stanno poteri buoni, schiavi noi se non ci sentiamo mai per questo coglioni. Che poi io vi dirò, nostalgia di quando che consolerò, ho nostalgia dei fratelli che strangolerò, ho nostalgia delle mogli che ammazzerò. Ho nostalgia delle cose che poi io vi dirò, ho nostalgia quando che consolerò, ho nostalgia dei fratelli che strangolerò, ho nostalgia delle mogli che ammazzerò. Bentornati, terza parte di Cinema Massimo, stavamo parlando di Woody Allen e di, nello specifico, Prendi i soldi e scappa. Vi stavo raccontando di come sia un film sostanzialmente demenziale in alcune situazioni. Ci sono degli sketch che vi invito anche ad andare a cercare su YouTube, a rivedere se non li avete mai visti, sketch secondo me fenomenali. Ad esempio lui, uno degli sketch più famosi è quando lui all'inizio viene presentato che i genitori gli regalano un violoncello con il quale lui inizia a studiare. Tra l'altro viene intervistato anche il suo maestro di musica, che praticamente sosteneva che lui a un certo punto avesse provato a soffiare dentro al violoncello perché non sapeva bene come si usasse. Però una delle gag più famose è quando lui entra a far parte della banda del paese come violoncellista, e sapete bene che le bande camminano mentre il violoncellista deve stare seduto, quindi c'è questa situazione in cui lui, mentre gli altri camminano, si sposta la sedia di continuo e va avanti e prova a suonare. Questa è una delle gag forse più famose di questo film. Oppure improbabili furti e furtarelli che lui inizia a fare quando entra, ad esempio, armato in un negozio di animali ed esce rincorso da un gorilla. O secondo me la mia scena preferita, che è la scena in cui lui va a rapinare una banca da solo, e si innesca un meccanismo nel quale lui presenta un biglietto al cassiere della banca in cui intima di consegnargli dei soldi. Purtroppo però il biglietto è scritto male, cioè inizia una diatriba tra sul che cosa ci fosse scritto su questo biglietto. Lui scrive "vi tengo sotto tiro" e il primo cassiere legge "vi tengo sotto giro". Allora non capendo cosa significa, chiama un altro cassiere che a sua volta legge "vi tengo sotto giro", però trova un altro errore nel biglietto che dice "apite con calma". Allora inizia tutta una discussione che coinvolge praticamente tutti gli addetti della banca, tutti quanti. È una scena memorabile secondo me, e poi alla fine Allen finirà in galera per anni. È proprio questa la situazione, e poi inizia la parte del film dove lui è carcerato, progetta evasioni improbabili, famosissima la scena in cui lui tenta di evadere trasformando una saponetta in una pistola, riesce a evadere, riesce a uscire con due guardie, ma sfortunatamente pioveva e alla fine si trova con una bolla con del sapone sciolto in mano e viene subito riarrestato. Poi è anche famosa la scena in cui loro finiscono i lavori forzati, e prova a scappare facendosi rompere le catene da un suo compagno d'armi, ma che ovviamente gli spacca il piede. A quel punto viene rinchiuso per punizione in una cella di isolamento con un assicuratore che lo intorta per 2 settimane sulle assicurazioni sulla vita. Sono tutte scene memorabili che portano poi alla conclusione del film. Vi invito veramente ad andarvelo a vedere, ci sono degli spezzoni su YouTube veramente spassosi. Questo è il primo film, però non sarà ovviamente il suo, diciamo, più grande successo, ma sarà un trampolino di lancio con il successivo film che è Provaci ancora Sam, di cui parleremo a breve. Vi lascio ora con un altro brano in Creative Commons. Solo per voi, ecco Angus Wallace con Starting to Die. I know there's no turning back, but I'd like if I could slow the wheels a bit. I wanna get off this railroad track, I wanna ride my own script. Oh, you're stuck in the rut your parents made. We gotta break the will that holds us down. We got more ahead than just a grave. We gotta justify what we believe in. If you change course to a pristine growth, be sure you find there's nothing you like the days of old. There's nothing here but empty air. I met a girl who feared a normal life and the success, but her mind's about as tight as a redwood knot, and about half as dense. You gotta keep the thoughts flowing, blossom and reach so high. It's when you stop growing, it's when you start to die. Oh, and if you change course to a pristine grove, be sure you find a footprint there. There's nothing you like the days of old. There's nothing here but empty. We'll be right back. Bentornati su Radio Abawalla, sono ancora Massimo Pica, la prima puntata di questa, diciamo, rubrica Cinema Massimo. Stiamo finendo di, abbiamo appena parlato di Prendi soldi scappa, il film d'esordio di Woody Allen alla regia, un film tormentato, abbiamo detto che addirittura un piccolo aneddoto, il film montato venne presentato a una serie di camerieri scelti come pubblico medio in una proiezione privata e ci fu il gelo in sala, nessuno rideva, il film venne preso e rivoltato nel montaggio da parte di un maestro del montaggio, un certo Rosenblum, che riuscì a ricostruire questa storia e a renderla puramente comica. Ma la carriera di Woody Allen era solo all'inizio, siamo nel 1969, lui in quel periodo era impegnato a Broadway come attore e autore di una piece teatrale chiamata Provaci ancora Sam. Allora, Provaci ancora Sam è un film quindi con un contenuto forse un po' più forte di Prendi soldi e scappa, c'è una storia meno demenziale ma più realistica, perché si basa su un soggetto teatrale in cui Provaci ancora Sam già per gli appassionati di cinema già dovrebbe dire qualcosa. Infatti il titolo originale del film è Play It Again Sam, vuol dire suonala ancora Sam, che è una frase famosissima di Casablanca, che infatti il film gira intorno al personaggio di Humphrey Bogart, con il quale il protagonista ha dei dialoghi serrati durante il film, e che lo, come fosse un amico immaginario, se lo trova sempre in mezzo e gli dà consigli su come comportarsi con le donne. Ovviamente lui non è assolutamente in grado di fare quello che Bogart gli dice. Ma la particolarità di questo film, secondo me, è anche una questione biografica, perché è il primo film con Diane Keaton, futura compagna, moglie, poi amante, poi rimoglie, insomma si sono lasciati e ripresi varie volte, forse a mio modesto parere la migliore attrice fissa, chiamiamola così, dei film suoi, quella con cui lui si trovava meglio e con cui riusciva a esprimere meglio il suo essere. Il film però non viene dato come regia allo stesso Allen, viene scelto un altro regista che si chiama Herbert Ross, che è un regista americano, una vecchia volpe delle commedie, che probabilmente non soddisfatti dal primi tentativi di Allen in Prendi soldi scappa, finché è stato ripreso, rimescolato, rimontato per renderlo comico, e quindi il film è stato affidato a una persona che magari con le cinepresa riusciva a essere più, diciamo, più concreto, senza nulla togliere ovviamente alla capacità recitativa e di scrittura di Allen. Il film ha la caratteristica di essere assolutamente gradevole e che scorre molto velocemente, con gag molto carine, molto simpatiche. Ora ci sentiamo un brano e poi vi racconto brevemente la storia del film. Ecco per voi Freaky Clean con Anyway. Tonight, never know where Benissimo, bentornati ancora su Radio Abawalla, ancora Massimo, stiamo parlando di Woody Allen, nello specifico di Provaci ancora Sam, diciamo tecnicamente il secondo film di Allen, anche se non è lui alla regia. La storia è una storia divertente, la storia di un uomo lasciato dalla moglie, ovviamente il suo tipico personaggio, frustrato, psicotico, assolutamente incapace di rimorchiare altre donne, ed è una coppia di suoi amici, interpretata da, appunto, da Ian Keaton, che è Linda, e del marito Dick. Molto divertenti le gag di Dick, in cui lui praticamente uomo d'affari, stiamo parlando degli anni, fine anni 60, quindi non c'erano cellulari, lui ogni volta che si spostava da una casa all'altra chiamava in ufficio per comunicare dove si trovava, quindi i numeri di telefono di dove l'avrebbero trovato, ed è un continuo susseguirsi di queste situazioni. Tra le gag più divertenti del film, io personalmente ricordo i tentativi di approccio che Allen fa durante il film, soprattutto quello con una ragazza in un museo. Allen si avvicina e la ragazza, parlando di un quadro di Pollock, comincia a parlare di depressione, fine, la vacuità del mondo. Dopo che lei ha finito questo pippone, Allen gli chiede: ma cosa fai sabato sera? La ragazza risponde: sono impegnato, devo suicidarmi. E allora la sua risposta è stata: e allora venerdì. Quindi questo è il senso del suo umorismo. E la particolarità del film, che segue tutto questo filone di Casablanca, è che la scena finale del film, in cui Allen, che interpreta appunto Sam, dopo aver... essersi dichiarato verso Diane Keaton, Linda, nel film, e averci passato una notte insieme, decide, per amore di Linda ma anche per rispetto del suo amico Dick, di lasciare libera Linda, e si conclude proprio con la stessa scena finale dell'aeroporto di Casablanca, ricostruita, rifatta ovviamente, con Allen che fa Bogart in maniera proprio assolutamente incredibile, ma buffa, e riporta lo stesso dialogo in cui Bogart convinceva Ingrid Bergman a partire con suo marito. Le scene, le riprese di questo film sono del 1971, mentre la pista trale è andata in scena fino dal 69, qui con buon successo. In realtà, tra la messa in scena teatrale e le riprese cinematografiche, in mezzo a queste due, Allen si occupa di portare sul set un nuovo film, che in titolo originale è Bananas, che tutti noi qui in Italia conosciamo come Il dittatore dello Stato libero di Bananas, anche questo finanziato dagli United Artists. Ci sentiamo tra breve con un altro brano e parleremo di Bananas. Ecco qui E.M. Cravens con What You Want. We'll be right back. Bentornati su Radio Bawalla, l'ultima parte della prima puntata di Cinema Massimo. Stavamo parlando di Woody Allen e siamo arrivati al terzo film, anche se in realtà in ordine di riprese è il secondo, mettiamolo come terzo comunque, è Lo dittatore dello Stato libero di Bananas, in cui lui torna a essere regista dopo aver ceduto invece in Provaci ancora assieme, è stato Herbert Ross. La particolarità di questo film è secondo me è che lui torna ad essere come in Prendi soldi e scappa, c'è questo di nuovo questo stile documentaristico in cui ci sono situazioni come se venissero raccontate da voci esterne che raccontano fatti storici. In breve è la storia di Fielding Mellish, un collaudatore industriale. Si vede all'inizio una gag divertente dove lui collauda una scrivania per impiegati, in cui i telefoni sono collegati a dei pesi, deve lanciare delle palle nel canestro durante la sua attività, apre i cassetti che sono dei bilancieri, e viene lui aborda un'attivista politica di nome Nancy, quindi si dedica alla politica senza esserne assolutamente cosciente, senza sapere nulla, quello che fanno un po' tutti gli uomini per cercare di rimorchiare in questa situazione qua. Lui è proprio lo stereotipo dell'uomo senza idee che si adegua a quello che piace alla donna. Poi viene lasciato, bellissima, vi consiglio di guardarlo su YouTube, la scena dell'addio in cui Nancy comincia a giustificare il motivo per cui sta lasciando Fielding Mellish, Woody Allen nel film, e lui non capisce, e poi c'è quella situazione in cui lei dice io voglio andare in Africa, voglio andare ad aiutare le brose, e lui dice ma io adoro la lebbra e tutte le mantagie, tutte le malattie della pelle, sono sempre state la mia passione, no? Poi vabbè, lei se ne va ovviamente e inizia per la disperazione, lui si reca a San Marcos. Infatti Bananas diciamo che è una rivisitazione dello Stato. In realtà all'origine i ribelli sono i ribelli di San Marcos che lottano contro il dittatore, come tipica situazione da paese del Sud America, in cui ci sono questi ribelli disorganizzati di cui lui diventa a un certo punto addirittura il leader, facendo una specie di parodia di Fidel Castro, lui con la barba rossa che fa dei discorsi improponibili e arriva in America per mercanteggiare la tregua. O secondo me una delle più migliori gag del film è quando lui si reca in un bar come fosse un chiosco, entra chiedendomi un caffè e poi ordina qualcosa come tipo 3000 tramezzini, ma la cosa divertente è che di questi 3000 tramezzini poi comincia a dire me ne faccio 200 integrali, 50 senza maionese, uno con rollè, un altro lo voleva vegetariano, insomma inizia questa situazione assurda di ordinazione panini pazzesca. Questa era la breve introduzione alla carriera di Woody Allen, ai suoi film, a un omaggio personale a uno dei miei artisti e attori preferiti, comico di riferimento per molte generazioni. Vi posso solo dire che torneremo più avanti, continuando a parlare di Woody, continuando a parlare dei suoi film e della seconda parte della sua carriera. Ora vi chiudo ricordando che Radio Bawalla ha un sito, radiobawalla.net, in cui potete trovare i blog personali di tutti i conduttori delle varie rubriche, tra cui Massimo Pica, che sono io. Se volete scrivermi, commentare, farmi sottolineare alcuni errori, qualcosa che ho detto a cui non siete d'accordo, qualsiasi cosa, insomma, volete che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, mi avete ascoltato, vi siete addormentati, non lo so, ditemi quello che vi pare. La mail è radiobawalla@gmail.com se volete scrivermi, proporre argomenti sul cinema, venire qua a dire la vostra, non c'è problema, noi siamo Ivrea. Va bene, vi lascio con un ultimo brano e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao da Massimo. Avete sentito? Cinema Massimo con Massimo Piccoli.